lei si fa, è di sinistra, ma si fa pubblicare in Audi e fa bene. Meno male, ecco, l'hai detto. Fai di sinistra. E quelli sono i boicottaggi idioti: boicotta la Mondadori, boicotta le Audi, ma sono coglionati. Sono coglionate, come dice Telese, signora Murgia? Scusi il linguaggio che Telese ha fatto così. No, l'unica cosa che otterrei io personalmente, non pubblicando con le Einaudi e quelli come me, sarebbero di far somigliare le Einaudi più a Berlusconi e un po' meno ai suoi elettori. È il sogno segreto di Berlusconi questo, che noi ce ne andiamo tutti, così lui può pubblicare quello che gli pare. Ma su questo avrei dei dubbi però, dubbi, guardi, che il sogno segreto di Berlusconi sia quello che voi, siamo scrittori, che Telese ha detto di sinistra, ve ne andate, non credo che sia questo il sogno, perché Berlusconi vuole fare i quattrini con le Einaudi e con la Mondadori. Ma questa è una ragione lei. Vendono molto meno di quello che crede lei in Italia, tant'è vero che Berlusconi se ne occupa solamente quando cominciano a superare i milioni di copie. Berlusconi chi? Silvio? Sì. Perché se ne occupa? Saviano per esempio si è occupato, perché Saviano raggiunge un numero elevatissimo di persone, ma il fatto che noi viviamo in un regime di sostanziale impunità quando pubblichiamo e nessuno ci castiga verbalmente come è successo a Saviano, indica semplicemente che siamo ininfluenti dal punto di vista dell'audience. La contraddizione più grossa non siamo noi che siamo antagonisti a lui che pubblichiamo per Einaudi, che è una casa storicamente antagonista a tutto quello che Berlusconi rappresenta, ma la contraddizione è lui nel momento in cui si trova a criticare uno che pubblica e che gli fa guadagnare tanti soldi. Cioè, trovo molto più interessante analizzare quella contraddizione della nostra. Quello però lei si riferisce alle critiche di Berlusconi a Gomorra, no? Esatto. Lei però ha detto un'altra cosa, una cosa in più, cioè Berlusconi se potesse manderebbe via tutti gli autori, diciamo, non allineati, questo lei Io ha detto. Io ne sono convinta, credo che l'uomo non sia affatto liberale. Lei è convinta che l'uomo non sia affatto liberale? E come la mette col fatto che allora appunto andare, correggo, se pensi questo te ne devi andare. Appunto. No, io penso che invece perché? Ma non raggiunge i suoi scopi perché trova resistenza. Se gli fai mancare la resistenza, fa il gioco suo.